Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, nuovo appuntamento con viaggi e racconti da ascoltare seduti comodamente sul divano o guardando fuori dalla finestra. Insomma, pronti con carta e penna per segnarvi destinazioni da non perdere nei prossimi mesi. Il sommario. Questa settimana andiamo a scoprire Caprarola e il suo palazzo Farnese, una meraviglia a due passi da Viterbo. Poi voliamo con gli occhi in Sardegna, a Cagliari, per scoprire i tesori del Museo Archeologico Nazionale. E poi torniamo nella penisola, in Umbria, per parlare di Montone. I hurt myself today to see if I still feel. Caprarola è un piccolo comune in provincia di Viterbo e come Viterbo merita davvero di essere visto, soprattutto perché a dominarlo c'è un palazzo, Palazzo Farnese, che è ancora una volta un insieme di bellezza e contrasti. Questa è la scelta di questa settimana della nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Livia, buon pomeriggio, ben ritrovata. Ciao Valeria, buon pomeriggio. Allora, questa settimana mi porti, ci porti nella mia regione, ci porti a conoscere un palazzo che è Palazzo Farnese, che però non è il Palazzo Farnese di Roma, ma è un altro Palazzo Farnese che si trova in una località precisa di cui adesso tu ci svelerai tutto. Sì, allora la scelta è in tuo onore, chiaramente l'hai colta. Siamo a Caprarola, a 60 km da Roma e a 20 da Viterbo, e ci andiamo perché questo Palazzo Farnese, che come hai detto tu non è il più famoso Palazzo Farnese, è comunque uno dei più bei palazzi cinquecenteschi che abbiamo in Italia. L'ho scelto un po' per la sua bellezza e un po' perché secondo me è una architettura rinascimentale che riesce a spiegarci un mio grande cavallo di battaglia, una mia grande convinzione, cioè che attraverso lo studio dell'architettura, l'osservazione dell'architettura, si riescano in realtà ad approfondire un sacco di altri temi, dalla storia alla sociologia, alla politica, in questo caso vedremo anche la meteorologia. Facciamo come sempre un filo di storia. Questo palazzo nasce nel 1530 per volontà di un cardinale, di Alessandro Farnese il Vecchio, che apparteneva a questa famiglia famosissima e potentissima, che decise a quel punto di commissionare a Antonio Sangallo il Giovane, che era un altro famosissimo architetto del tempo, il progetto di una fortezza pentagonale che stesse a Caprarola a rappresentare il potere di una famiglia. Il progetto inizia, ha una funzione di espressione di potere, quindi è proprio con questi bastioni molto massicci, ma si ferma subito perché curiosamente il cardinale, come si suol dire, fa carriera e diventa papa, non c'è più la necessità di avere una rappresentazione fisica del potere militare della famiglia. Però questo palazzo ha una seconda vita, nel senso che 25 anni dopo il nipote, che si chiama a sua volta Alessandro Farnese il Giovane, che è nuovamente un cardinale, decide di portarlo a compimento. Un po' perché si è innamorato di Caprarola, perché la considera un posto di campagna, con l'aria buona, eccetera, eccetera. E decide però di trasformare l'idea iniziale del primo Alessandro Farnese e di trasformarla in un palazzo che privilegi l'aspetto residenziale, quindi abbandona l'obiettivo militare primigenio e va in direzione del residenziale. Questo perché? Perché avendo un papa in famiglia, la famiglia Farnese non ha più bisogno di raccontare attraverso una costruzione possente di essere una famiglia potente, l'ha già dimostrato con i fatti. E quindi Alessandro Farnese il Giovane commissiona la conclusione dei lavori al Jacopo Barozzi da Vignola, che era un altro importantissimo architetto manierista del tempo, e gli dà l'indicazione di farne un luogo di bellezza, di sfarzo, di eleganza. And you could have it all. My empire of dirt. Il Vignola è la scelta giusta perché era un architetto famoso e aveva partecipato addirittura alla costruzione della Reggia di Fontainebleau, quindi aveva l'abitudine a fare delle cose di grande impatto visivo. In più, avendo a disposizione fondi sostanzialmente illimitati, al lavoro di completamento di Palazzo Farnese partecipano i più grandi pittori, architetti, decoratori dell'epoca, insomma viene presa la crema dell'arte del momento, che ottiene un risultato decisamente all'altezza delle aspettative, insomma. Ecco, proprio a questo proposito, Olivia, vorrei davvero questa volta invitare chi ci ascolta ad andare a vedere e a ricercare foto online, perché il contrasto che c'è tra l'esterno e quindi questa sorta di fortezza proprio pentagonale con invece l'interno e quindi queste sale completamente affrescate, sembra proprio di passeggiare in una galleria infinita sì, all'interno del palazzo. È veramente molto forte e molto d'impatto. Sì, e poi il tuo suggerimento è giustissimo, anche perché per parlare per esteso di Palazzo Farnese a Caprarola dovremmo dedicare delle ore, non è possibile in questo contesto, quindi andarlo a guardare significa completare le cose, le poche cose che necessariamente per il tempo che abbiamo diremo. Questo contrasto che tu hai rilevato è secondo me fondamentale per cogliere l'essenza di questo palazzo. Ci sono cose più di altre che a me colpiscono e che trovo spettacolari, per esempio il discorso geometrico, per esempio la piazza che ospita il palazzo è un cerchio che racchiude il pentagono della struttura, che a sua volta racchiude il cerchio del cortile interno, quindi un discorso di rimandi geometrici. C'è questo cortile interno che è sia nel progetto iniziale che nel progetto poi che è stato realmente realizzato il cuore del palazzo, ed è il cuore del palazzo proprio per quello che dicevi tu, nel senso che tu entri, varchi la soglia, sei passato dalla rigidità geometrica della struttura esterna e entri in questo cerchio perfetto che è composto poi da due file di portici sovrapposti che sono infine incorniciati dal cerchio del cielo, per cui è una cosa davvero che toglie il fiato. E poi le sale che dicevi tu, piano nobile e piano rialzato, sono un'infilata di sale museali quasi, sono tutte completamente affrescate, ci sono infiniti giochi di prospettive per cui guardi da una parte e hai la sensazione di guardare qualcos'altro, insomma vanno davvero visitati. What have I become, my sweetest friend? Di queste quella che io trovo più straordinaria sia come simbolo che come effetto visivo è la sala del mappamondo, Valeria, perché intanto ha questo impatto pazzesco. Le quattro pareti della sala del mappamondo sono affrescate con la rappresentazione di tutte le terre che nel Cinquecento erano state scoperte, e quindi è una specie di lezione di storia e di geografia cinquecentesca, molto puntuale, molto precisa. Poi alzi la testa e sul soffitto hai la rappresentazione dei segni dello zodiaco attorniati da animali fantastici, quindi hai questo contrasto tra la razionalità e la precisione della geografia e la fantasia sopra di te. Un'altra cosa spettacolare è la Scala Regia, quella che è stata nominata la Scala Regia. Normalmente nei palazzi nobiliari le scale che erano a chiocciola, che erano fatte a chiocciola, erano considerate scale di servizio perché un po' strettine, perché un po' scomode. A Palazzo Farnese la forma a chiocciola o a lumaca è invece portata a un ruolo di scala di rappresentanza vera e propria. Quindi il Vignola ha fatto questa scala elicoidale molto grande che collega il piano d'ingresso agli appartamenti del cardinale e che è una cosa da non credere di bellezza, perché è un tortiglione enorme di 30 colonne doppie in pietra che sono collegate da un fascione a bassorilievo e tutto è completamente affrescato. E poi ci sono anche, come dire, dei dettagli un po' nascosti, come ad esempio quelle scale di servizio che non si vedono perché sono, no, tra le pareti. Tra le pareti, perché lo scopo di questo palazzo era davvero fare una cosa meravigliosa, sfarzosa, bellissima, ma era anche studiato per permettere di viverlo in maniera pratica, in maniera quotidiana. Quindi inserire le scale di servizio all'interno dei muri perimetrali significava permettere alle persone che lavoravano all'interno del palazzo di non disturbare la quotidianità del cardinale. Un'altra particolarità è il fatto che questo palazzo abbia una componente meteorologica importante, che non è una cosa frequente nell'epoca, perché sono stati realizzati un appartamento invernale che è collocato ad ovest e un appartamento estivo che è orientato a nord. Quindi anche qui si è prestata attenzione alla qualità della vita del cardinale, che potesse avere più o meno caldo e più o meno freddo. I will let you down. I will make you hurt. E poi c'è una cosa secondo me carinissima, che è la cosiddetta scala del cartoccio, che è una scala che percorre tutta l'altezza di Palazzo Farnese, che sul corrimano ha uno scasso che permetteva di far scivolare dalla cima a terra molto velocemente un eventuale cartoccio, un eventuale pacchettino, e quindi permetteva di trasferire delle eventuali comunicazioni segrete in maniera velocissima. E questo, quando lo vedi, ti permette di farti un po' l'idea di come doveva essere la vita vera all'interno di questo palazzo, insomma la vita dietro le quinte, in qualche modo, dietro lo sfarzo delle sale e degli affreschi. E poi ci sono i giardini, Valeria, e tu sai che i giardini di Palazzo Farnese sono un'opera d'arte in sé. Sono dei giardini all'italiana, e i giardini all'italiana sono spesso dei luoghi meravigliosi, ma questi sono stati pensati dal Vignola come un complesso monumentale vero e proprio e quasi a sé, nel senso che la ricchezza e la bellezza del palazzo vengono davvero replicati all'esterno e riescono ad essere contemporaneamente architettonici, botanici e fortemente emozionali. Naturalmente, come ogni giardino all'italiana che si rispetti, hanno labirinti, vialetti, giochi d'acqua, boschi, statue, ponti, tutta l'iconografia tradizionale del giardino all'italiana c'è, ma c'è realizzato con una ricchezza e una perfezione assoluta. Viene ripreso il discorso meteorologico, quindi l'appartamento d'inverno ha un giardino d'inverno e l'appartamento d'estate ha un giardino d'estate, e quindi si capisce da questo come anche i giardini facessero parte della quotidianità del cardinale e della vita, chiamiamola, della corte che si svolgeva anche all'esterno. Senti Livia, a proposito di esterno, perché poi tutta Caprarola è cambiata attorno a questo palazzo, in particolare una via. Sì, tutta Caprarola, hai detto bene, perché quando al Vignola è stato dato il compito di completare la costruzione, è chiaro che l'architetto deve aver pensato: non possiamo mettere questa meraviglia in cima a una collina, perché Palazzo Farnese domina Caprarola, senza in qualche modo creargli un intorno. E questa operazione di creazione dell'intorno è stata un'operazione non da poco. Intanto perché c'erano delle belle differenze di quota, quindi anche durante la lavorazione hanno dovuto organizzarsi in maniera piuttosto complicata. E poi perché il Vignola ha pensato bene di creare una specie di prospettiva urbanistica tagliando Caprarola, il paese, con una strada che è lunga 600 metri, che è l'equivalente di un colpo di fucile che dalla base del paese porta visivamente e fisicamente fino a Palazzo Farnese. Per arrivare a questo, naturalmente, hanno dovuto abbattere palazzi, cambiare la forma del paese, costruirne di nuovi, creare delle piazze, eccetera, eccetera. Ma il risultato, devo dire, che è assolutamente straordinario, perché questa strada con questa visione finale davvero sono un omaggio al potere, alla famiglia Farnese, che nessun altro era riuscito fino a quel punto a realizzare in quel modo. Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Globetrotter 24. Se ci seguite da un po' avrete capito che oltre ai piccoli borghi italiani, a castelli, palazzi e ville da andare a scoprire, ci piace parlare anche dei musei, che in questo momento hanno saputo reinventarsi e aprire le proprie stanze. Questa settimana siamo andati a Cagliari e a raccontarci come è cambiata la vita del Museo Archeologico Nazionale è la responsabile social Lara Sarrizzu. È cambiata tantissimo perché passare dall'avere un museo sempre frequentato e soprattutto in un momento come la primavera in cui il numero di scuole, il numero di studenti che accogliamo solitamente è davvero grande, trovarci ad avere invece un museo deserto ha un impatto anche emotivo, per cui ovviamente ci siamo dovuti in qualche modo, diciamo, inventare qualcosa per stare comunque vicini al nostro pubblico ed evitare che davvero il museo perda la sua funzione semplicemente essendo chiuso. Per cui noi siamo da tanti anni presenti sui social, presenti su internet, con il nostro sito e con le nostre pagine, quindi su Facebook, Twitter e Instagram. In questa fase abbiamo voluto proprio avvicinarci al nostro pubblico incrementando anche le pubblicazioni e scegliendo anche degli argomenti che siano un po' più, diciamo, nella nuova quotidianità che tutti ci troviamo ad affrontare. Quindi ad esempio con delle nuove rubriche come oggetti di casa, oppure un'altra rubrica che si intitola Piccoli oggetti, grande bellezza, che ci dà la possibilità di mostrare oggetti molto piccoli che solitamente non sono esposti al museo, che sono conservati nei depositi. E poi un racconto a puntate che stiamo facendo su Facebook e anche sul nostro sito, in cui proprio raccontiamo di giorno in giorno le vetrine del museo, comunque un modo per comunque farci visitare. Considera che poi dal 3 di aprile abbiamo messo online il virtual tour del museo. Quindi è proprio possibile esplorare le sale del museo, è un progetto che era già in corso, commissionato dal Polo Museale della Sardegna, ma che proprio in questa fase è stato un po' accelerato proprio per venire incontro al nostro pubblico e fare in modo che fosse proprio visitabile quasi fisicamente il museo. La, la, la, la. Ovviamente dobbiamo invogliare chi ci sta ascoltando a venire sul vostro sito e a compiere questo tour virtuale. Allora, a questo scopo, raccontaci tu qualcosa di questo viaggio all'interno del museo. Quindi, secondo te, quali sono le sale più affascinanti o comunque quali sono i tesori che voi custodite? Allora, il museo copre un arco temporale di quasi 7.000 anni. Cioè abbiamo reperti che vanno dal Neolitico antico, quindi circa 6.000 anni avanti Cristo, per poi arrivare fino all'anno 1000 circa. Quindi è sicuramente un viaggio temporale attraverso reperti che provengono da tutta la Sardegna. In più abbiamo circa 4.000 reperti, quindi insomma abbiamo comunque un patrimonio davvero ampio. E quindi secondo me questo è già un elemento che caratterizza il Museo di Cagliari. In più abbiamo tantissimi bronzetti nuragici e infatti alla sezione nuragica è data anche un ampio spazio, diciamo che secondo me dovete comunque tutti venire a vedere le nostre pagine, il nostro sito. Insomma, sono sicura che quando il museo sarà nuovamente aperto vi avrà solleticato proprio l'idea di venire a conoscerlo. Ci sono altri siti collegati con il Museo Nazionale Archeologico? Allora, il museo si trova all'interno della Cittadella dei Musei, che è un complesso che si trova proprio all'ingresso del quartiere più antico di Cagliari, il quartiere di Castello. All'interno della Cittadella dei Musei si trovano ben 5 istituti museali e noi siamo collegati con la Pinacoteca Nazionale di Cagliari, che è un altro dei musei del Polo Museale della Sardegna afferenti alla Direzione Regionale Musei. Lara, ci sono delle iniziative che state percorrendo anche dal punto di vista dell'accessibilità, altre iniziative? Allora, il Museo Archeologico di Cagliari ha sempre dato ampio spazio all'accessibilità e continuiamo a cercare di migliorarci proprio per rendere il museo sempre più accessibile. Considera che dal 2015 è stato sviluppato un progetto che si chiama Museo Liquido, che ha voluto rendere il museo proprio liquido, fluido, quindi il museo vuole adattarsi ai suoi visitatori. Una delle iniziative che abbiamo pensato in questo periodo è la creazione di una serie di audio accessibili, dei podcast, in cui la nostra direttrice racconterà dei reperti più significativi del museo e li racconterà proprio attraverso degli audio, in modo tale da avvicinarci anche a coloro che magari non possono godere anche delle immagini dei reperti del museo. Dalla Sardegna all'Umbria, questa settimana tra i borghi bandiera arancione del Touring Club italiano abbiamo scelto Montone. Il primo cittadino è Marco Rinaldi. Momentaccio questo anche per il nostro borgo. Comunque stiamo vivendo un'emergenza in maniera corretta e voglio ringraziare tutti i miei cittadini che rispettano le regole. Invito tutti ancora a restare a casa e noi come amministrazione comunale comunque stiamo promuovendo delle attività anche sui canali social che uno cerca di far seguire, insomma di far vivere comunque la comunità ugualmente anche da casa. Adesso veniamo invece al borgo, perché mi risulta che Montone, oltre ad essere apprezzato, diciamo, in Italia, è un posto che ultimamente ha attirato anche molti stranieri. Sì, fortunatamente abbiamo un turismo estero molto presente, e infatti si preoccupa molto questo coronavirus, perché comunque dovremmo ricostruire tutto quello che è stato fatto in questi anni. C'è un turismo che viene dagli Stati Uniti d'America, dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Danimarca, Germania, Australia. Gli ultimi dati sono positivi, appunto nel 2019 abbiamo avuto 38.000 presenze turistiche. Ha trainato questo turismo straniero anche le manifestazioni che proponiamo. Noi a luglio c'è l'Umbria Film Festival, che è una rassegna cinematografica che porta molti visitatori anche appunto da fuori Italia. Ma mi conferma che ci sono stranieri che hanno anche comprato casa lì? Sì, hanno acquistato l'abitazione, l'hanno ristrutturata, qualcuno vive qui, qualcuno vive sei mesi nel proprio stato di origine. Quindi, e poi si sono integrati molto bene anche nel tessuto associativo, propongono iniziative, questo è importante, sono in parte integrante della nostra comunità. Ci racconti invece proprio com'è il vostro borgo, quindi anche dal punto di vista architettonico, che cosa si trova venendo a Montone? Allora, Montone è situato in Umbria, in Alta Valle del Tevere, nella parte nord. È caratterizzato appunto dal borgo medievale, un borgo medievale chiuso dentro le mura. Soprattutto è un borgo ricco di storia. Noi abbiamo Braccio da Montone, no? Che lo conoscono tutti, che è un capitano di Ventura che nel prima a metà del 1400 ha tentato di fare uno stato nell'Italia centrale, soprattutto la famiglia nel periodo di Braccio, il figlio Carlo, che poi figlio Carlo portò anche la Santa Spia, una reliquia da dopo essere stato a servizio della Repubblica di Venezia, aver ricacciato i turchi, gli donarono questa spina. E tra l'altro proprio il lunedì dell'angelo ne decretò la festa tutti gli anni. E la riportò nel 1473, e da vedere che c'è a Montone, c'è il museo di San Francesco, che è stato appunto un convento francescano, che è stato ristrutturato ed è stato musealizzato, quindi tutte le opere provenienti dalle chiese di Montone sono state messe dentro la Pinacoteca. E qui voglio ricordare che abbiamo un gruppo della deposizione lignea, un gruppo del 1100, la Madonna del Gonfalone, che è una Madonna della Misericordia di Bartolomeo Caporali, e poi ci sono altre opere importanti da vedere, come la stessa chiesa, che chiesa di San Francesco, è un monumento dove all'interno la famiglia Fortebracci fece fare molti affreschi, tra cui ci ha lavorato anche l'Alberti da Ferrara. Poi abbiamo la collegiata di Santa Maria, un altro monumento, un'altra chiesa importante e bella da vedere. Insomma, se venite a Montone trovate questo borgo arroccato in un colle che comunque è anche comodo per venirci a vedere, perché comunque c'è l'uscita dell'E45, l'arteria principale dell'Umbria, e dall'uscita per arrivare a Montone ci vuole 5 minuti. Oltre all'Umbria Film Festival ci sono altre manifestazioni che secondo lei attirano, che comunque risultano interessanti per chi vuole venire a Montone? Sì, c'è la danza della Santa Spina, che è la nostra rievocazione storica, che si tiene appunto il lunedì dell'Angelo e la settimana della penultima domenica di agosto. Il lunedì dell'Angelo è caratterizzato soprattutto da un corteo storico della donazione della Santa Spina da parte del conte Carlo Fortebraccio al popolo di Montone. Invece ad agosto è una settimana di festeggiamenti, dove appunto ci sono i tre rioni di Montone, rioni di Porta del Borgo, Porta del Monte e Porta del Versiere, che si sfidano per la conquista del Palio. E poi altre manifestazioni: in autunno abbiamo la Festa del Bosco, alla fine di ottobre, primi di novembre. Questa è una mostra mercato dei prodotti del bosco e del sottobosco, che si caratterizza dal fatto che questi si aprono le botteghe all'interno dei fondi del centro storico, messi a disposizione da privati, quindi Montone sarà pieno di botteghe dove si possono trovare prodotti appunto di artigianato locale, ma anche e soprattutto di prodotti del bosco e del sottobosco. Ci fermiamo qui per questa domenica. Se volete scriverci, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.